strada senza ritorno, un percorso tra gioie e dolori. C'è ancora tempo di vivere, ma inizia il lento declino. L'agilità non è come un tempo, anche se c'è la saggezza. Ricordi antichi prevalgono tra allegri, tristi pensieri.